18 e 31 minuti primi, venerdì 15 di giugno 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni venerdì a quest'ora delle ore di religione, trasmissione di teologia estrema tutti i venerdì pomeriggio sugli 87.9 in FM. Allora, andiamo a cominciare la puntata di oggi a ranghi sempre più ridotti, l'arrivo dell'estate si fa sentire anche da queste parti, ma insomma cercheremo di ricomporre almeno di tenere botta fino a luglio, poi insomma, si vedrà, ecco. Dunque, la trasmissione odierna, come già era stato annunciato da un paio di settimane, verterà, e forse anche le prossime, visto che insomma il materiale ce n'è. Il materiale c'è, forse almeno un'altra, insomma, probabilmente. Materiale ce n'è in abbondanza e ci riferiamo a un libro che è uscito da poche settimane, insomma, di cui si è parlato in ogni ampiamente. Dove ampiamente, nonostante poi di solito su questi temi si tenti di fare grosse operazioni di censura. Ne ha parlato, seppur indirettamente, ma neanche troppo, addirittura il Papa, quindi insomma, sceso in campo direttamente, dicendo peraltro basta con le calunnie e con il moralismo non deontologicamente corretti, sì, che lo fa avvicinare a personaggi che dovrebbero essere lontani da lui, ma evidentemente sono più vicini di quello che si pensi. Allora, il libro in questione si chiama Sua Santità, le carte segrete di Benedetto XVI, è uscito a fine maggio, non credo che abbia venduto, non so quante, già centinaia di migliaia di copie. Un pochino più rispetto al target dei libri simili per via del battaggio. Del battaggio, però certo sempre comunque nei limiti di un saggio, quindi chiaramente non saprei i numeri, però non pochi per la tipologia, come numeri assoluti, diciamo, sicuramente una percentuale infima della popolazione italiana. Aspettiamo di avere i dati ufficiali. E lui, Nuzzi, per ricostruire brevissimamente il personaggio, è un giornalista, peraltro un giornalista di scriveva su Panorama fino a poco tempo fa, attualmente libero probabilmente, sì, o lavora, o comunque ha lavorato fino a pochissimo tempo fa per Libero, quindi diciamo non la biografia. Conduce il programma sulla 7, là, Gli Intoccabili. Insomma, non è la biografia di un incendiario, ecco, no. Mettiamola così, questo per comprendere un po' il giornalista. Qualche anno fa, 3 anni fa, aveva toccato temi similari attraverso un libro sempre per la stessa casa editrice che si chiamava Vaticano S.P.A., anche questo raccontato qui in radio su un'altra trasmissione che si occupava di temi similari ai nostri. E dunque direi nell'attesa del redattore fantasma il redattore ombra. Oggi abbiamo il redattore ombra, esatto. E tanto introduciamo questo libro di Nuzzi, innanzitutto spiegando cos'è, per chi non lo sapesse, comunque. Visto che di Corvi abbiamo parlato. Di Corvi abbiamo parlato e questo è il motivo per cui si è parlato di Corvi, e cioè praticamente questo libro pubblica per la prima volta, perché Nuzzi appunto è venuto in possesso in modo che adesso diremo, di appunto le carte segrete, nel senso di documenti che sono proprio transitati fisicamente per le stanze del Papa, strettamente confidenziali, testi, appunti, lettere, e relazioni e rapporti che insomma avrebbero dovuto essere letti solo da 3-4 persone. Prevalentemente sono tutti quelli che vengono pubblicati, sono per la gran parte indirizzati o allo stesso Papa o al suo segretario padre Georg, che si chiama quasi Gershwin, sì, Ganswein, è la versione tedesca Georg di George Gershwin, e che è appunto il segretario particolare, oppure indirizzati a Bertone, che è il segretario di Stato, che è come dire primo ministro praticamente. Quindi insomma i massimi vertici. Diciamo i massimi vertici. E provenienti anche da, anzi soprattutto da personaggi di spicco. Come è possibile che queste carte per la prima volta siano uscite fuori? Lo spiega lo stesso Nuzzi, che praticamente a seguito del suo libro appunto Vaticano S.P.A. era stato individuato da alcuni esponenti curiali anonimi perlomeno per ora, e che però abbastanza critici verso, in particolare verso una gestione eccessivamente finanziaria e curiale di Bertone, prevalentemente, diciamo che dalla lettura dei testi sembra essere comunque tendenzialmente l'obiettivo primario degli attacchi. E questo gruppo di non si sa chi e quanti personaggi curiali hanno pensato che Nuzzi, autore sia di quel libro sia, appunto, dicevi, non un personaggio incendiario, potesse essere destinatario privilegiato, e quindi è stato contattato lui, non viceversa, in vari modi che lui descrive, probabilmente veri, comunque non entra in particolari dettagli, però potrebbe anche, diciamo, essere una ricostruzione che tende a sviare o a depistare. In ogni caso, lui riceve effettivamente dei documenti che sono stati anche riconosciuti come autentici dallo stesso Vaticano, che appunto ha attaccato in vari momenti, perché poi alcuni erano già trapelati, particolar modo dal Fatto, quello che ne ha fatti uscire un po' di più. E quindi questo è l'argomento, e questo è il motivo per cui l'autore, appunto Nuzzi, è questo personaggio che sarà occupato di queste vicende. Il libro è diviso in vari capitoli a seconda più o meno delle vicende che vengono trattate, e fondamentalmente, soprattutto per noi, per i nostri ascoltatori, diciamo subito che non si apprendono cose che non si potessero quantomeno immaginare, ecco. E per cui, per quanto riguarda proprio le news, per così dire, c'è sicuramente qualcosa di molto curioso e divertente, però non c'è probabilmente, insomma, nulla che proprio cambia radicalmente la visione dei meccanismi curiali e delle ingerenze vaticane nel nostro stato, per loro straniero, che li contiene. E quindi ne parliamo intanto perché, appunto, è una vicenda inedita quella della fuoriuscita da lì di queste carte, e poi perché sono fonti primarie, assolutamente primarie, e poi incredibilmente, essendo segrete, sono forse le uniche fonti, tra virgolette, ufficiali, cioè nel senso proprio coi timbri ufficiali, in cui dicono proprio la verità. Anche perché, insomma, sono per il presidente, il primo ministro, ecco, il segretario generale del presidente, tutta gente che ossequiosamente dice cose ferocissime verso altri, proprio nella maggior parte dei casi, oppure relazioni sullo stato di alcune situazioni che sono tutti assolutamente veritieri. Quindi questa è forse la cosa più significativa, appunto, che si può leggere la verità, ovviamente carte segrete, e ci mancherebbe altro, insomma, proprio in ossequio ai principi kantiani della pace perpetua, secondo cui quello che non è avvantaggiato dall'essere pubblico è illecito e immorale, come principio negativo. Quello positivo, ovviamente, è che quello che invece, se reso pubblico, ha più probabilità di riuscita, è morale. Però questo, qui entriamo nella soggettività, ecco. Entriamo nella soggettività, e soprattutto entriamo a parlare del quello che è forse il nemico giurato del cattolicesimo degli ultimi 200 anni, cioè l'illuminismo, ma insomma questa sarebbe un'altra questione. Però, appunto, torniamo alle carte segrete e diciamo subito alcuni degli argomenti principali. Innanzitutto, uno che effettivamente è abbastanza articolato e abbastanza anche circostanziato nelle accuse è quello che riguarda, per esempio, la vicenda Boffo, che affrontammo molto molto tempo fa, che risale forse un annetto fa, più o meno. Sì, era grosso, diciamo, modo un annetto abbondante. Di cui riassumiamo brevemente, cioè che una informativa di provenienza inizialmente non specificata viene pubblicata da giornale di Feltri e attacca, appunto, Dino Boffo, che era l'allora direttore di Famiglia Cristiana, che in quel periodo aveva, diciamo così, si era mostrato eccessivamente critico, alcuni elementi critici verso la dissolutezza dell'allora premier che confliggeva palesemente col titolo stesso della testata di cui Boffo era direttore, cioè, appunto, Famiglia Cristiana. Era proprio qualcosa che era molto lontano dai vertici del nostro governo di allora, e non si può dire altrettanto di quello attuale, e ci arriveremo. E quindi molti hanno associato questa informativa, che poi si rivelerà falsa, perché sosteneva che Boff aveva ricevuto una condanna per molestie e che fosse notoriamente omosessuale. E tutto ciò appunto si rivelerà falso, e Feltri verrà radiato per un breve tempo, per un breve periodo, dall'albo dei giornalisti, viene deferito. Sospeso, sì, verrà, prima di radiare qualcuno. No, ci mancherebbe, insomma, un fior di giornalista. Però appunto il problema era da dove fosse partita questo attacco. Problema che ovviamente per primo si è posto lo stesso Boffo, che silenziosamente si è messo in moto per cercare di ricostruire questa vicenda, e c'è appunto proprio un carteggio con prevalentemente col padre Georg, e quindi c'è da supporre che le carte siano arrivate anche al suo principale, quindi allo stesso pontefice, e fondamentalmente con dettagli e accuse abbastanza circostanziate, anche ricavate da alcune abbastanza imprudenti dichiarazioni dello stesso Feltri, che in qualche modo ha scoperto la sua fonte, soprattutto agli occhi di uno come Boffo, che sa esattamente tutto. Certo, perché non è che fa il direttore di Famiglia Cristiana perché sei l'ultimissimo arrivato. E viene fondamentalmente considerato, quantomeno da Boffo, ma appunto con argomentazioni stringenti, l'artefice di questa macchinazione, il bertoniano direttore dell'Osservatore Romano, padre Vianne. E quindi al di là poi degli intrighi della vicenda, qui viene subito alla luce un po' un meccanismo, nel senso, senza entrare poi nel dettaglio, qui c'è un direttore dell'Osservatore Romano che attacca tramite un giornale terzo, insomma, terzo ma insomma di discutibile credibilità, il direttore di Famiglia Cristiana, il quale viene poi insomma viene rimosso da quell'incarico, tace, e c'è anche un articolo di Travaglio che è uscito qualche tempo dopo, quelli che lui scrive in prima pagina su un Fatto Quotidiano, che Travaglio, ancora ignaro di questo carteggio segreto, chiede pubblicamente a Boffo perché stai zitto, cioè tu sai perché ti sei messo silenziosamente e praticamente c'hai avuto una carriera finita, chiedendo ovviamente chi c'era dietro, chi proteggeva. E Boffo, che cita lo stesso articolo nelle sue lettere, risulta essere un po' come tutti gli altri, cioè scrive con un linguaggio di devotissima obbedienza al Santo Padre. In queste lettere ovviamente sono tutti eccellenze reverendissime, tutti umilissimi, ci mancherebbe, e così via. E quindi lui, anche lui, fondamentalmente dice di non volere, per non turbare il Santo Padre, divulgare quello che lui sa. E su questo adesso apriamo una breve parentesi per festeggiare l'arrivo dell'altro reverendissimo, la completezza della, eccomi, della buonasera redazione. Il traffico ci ha bloccato, mi piace dire questa cosa perché lo dicono tutti alle radio. Beh, e adesso c'è. Finalmente una volta lo dico io dopo anni. Beh, diciamo, stando anche il bello della diretta, esatto. Poi stando a Roma lo puoi dire, sei a Oslo, dici, sono rimasto bloccato del traffico. Infatti, non ti crede nessuno, lì la neve magari non agosto, non a luglio, non a luglio. Ma la neve non li blocca, perché qui sono, beh, sì, vabbè. Cioè sono abituati, né, che stanno come da noi, che c'hanno il sale, com'era? Quintali di sale, non c'avevamo abbastanza sale. C'era abbastanza sale, non mi ricordo che ha detto. Comunque sì, insomma, stavamo su questi livelli. Pensa se il sindaco di Oslo dice, ma non avevamo, lo trovano impiccato dopo tre secondi. È caduta troppa neve. Sì, sì, ci fanno un pupazzo di neve. Harakiri per la vergogna. Anche a Tokyo. Sì. A Sapporo sicuramente. Però anche a Sapporo. Sapporo organizza. Non credo che la neve gli faccia paura. No, guarda, io veramente non ho parole, non sono stato a Sapporo, ma mi piacerebbe vedere l'organizzazione invernale di Sapporo con la neve. Olimpiadi invernali del 74. No. 78. No, prima. No, Sapporo secondo me è invernali 70. Oddio. Vabbè, mi ricordo. Ecco, arrivi e facciamo subito confusione. Mi ricordo, aspetta. No. Guarda, dunque, hanno fatto Tokyo 64. Secondo me si sono presi un pacchetto ravvicinato. Te lo dico subito. Tokyo 64, che è la prima Olimpiade in cui ha introdotto il cronometro. Esatto. 72, infatti, esattamente, esatto. Infatti erano contemporanei di Monaco. Sì, poi dopo le hanno fatte sfasate, sì, di due anni in due anni. Sì, ed è i primi cronometri elettronici, quindi se voi per esempio guardate documentari su Roma 60, ci sono i cronometri, quelli col a mano. Esatto. C'è un omino che preme un tasto. Beh, il cronometrista funziona. Il mitico cronometrista che ora non esiste più. Cioè c'è ma in allenamento, ma poi sono tutti, penso, comunque elettronici ormai. Non... Sì, sì. Cioè c'hanno un laser, via. Senza problema. Ancora era battuta però. No. Non c'era ancora Tartan a Tokyo. No, non c'era il Tartan a Tokyo, no. Quella in Messico. No, avevamo introdotto la vicenda, insomma, dei suoi contatti, di questa fonte anonima che, per la cronaca, non abbiamo detto, si fa chiamare Maria. Beh, quale nome migliore? Quale nome migliore? Ma è un nome collettivo, io direi. È un nome collettivo, no? Abbiamo detto che è un, insomma, sicuramente un gruppo composto da più persone, tra cui forse c'era, ma sicuramente non era né l'unico né il più importante, questo maggiordomo che attualmente risulta essere agli arresti ancora. Sì, temiamo per la sua vita. Sì, comunque, diciamo. De Pino Acchitto è stato il maggiordomo, ecco. Vabbè, come la tradizione. E poi abbiamo parlato... Stanno torturando al Sant'Uffizio con metodi del XVI secolo. Bah. Poi abbiamo detto della vicenda Boffo, in generale parlavamo del fatto, di alcuni fatti specifici che entra nel quale entra in dettaglio il libro, insomma, di cui poi appunto una delle cose più importanti forse è il linguaggio, prevalentemente, oltre al fatto che apprendiamo, in realtà era nota questa cosa, però non a me, che in Vaticano c'è un ufficio importantissimo che è l'ufficio cifra. C'è quello che si occupa di cifrare e decrittare codici segreti da tutto il mondo. E che immaginiamo sia fra i migliori del mondo. Immaginiamo sia fra i migliori del mondo. Intanto il dato è che la diplomazia vaticana è la seconda. Non è un omino solo come nei film di spionaggio degli anni 60. Beh, non è un ufficio tipo quelli della seconda guerra mondiale. Sì, come la base dove lavorava Turing per decrittare Enigma, no? La macchina Enigma che decrittava i messaggi tedeschi. Come si chiamava il codice loro? È un nome famosissimo. Famosissimo. Turing. Adesso cerchiamo. Calma. È famosissimo. Quindi lì gli inglesi avevano messo nella base tutti i migliori scienziati, tra cui Turing, che era un genio, ma un po' strampalato perché turbato. Quello, diciamo, della mela. Quello della mela. E nel Vaticano c'è un ufficio analogo. Sì. Che... Ma non è che loro decrittano i messaggi segreti dei nemici. No, i propri messaggi che vengono da tutte le nunziature del mondo. Che vengono cifrati. Che sono cifrati e mandati a Roma, alla segreteria di Stato. E dicevamo appunto che la diplomazia vaticana è la seconda al mondo dopo gli Stati Uniti. Esatto. La Lorenz, era la cifratrice Lorenz. La Lorenz, quella dei tedeschi. Quella dei tedeschi. E quella degli inglesi? Enigma. La macchina era Colossus, che sembra un cattivo della Marvel. Sì, più o meno siamo lì. No, sembra, perché Colossus è uno degli X-Men. Però è buono, non è cattivo. Sì, Colossus. No, è uno buono. Beh, pure Colossus era buono, la macchina inglese. Boh, vabbè. Beh. E quindi, insomma, dicevamo, c'è questo ufficio un po' fantoziano, l'ufficio cifra. Sì, tipo Lucra. È vicino all'ufficio Lucra, l'ufficio ricambi aziendali. L'ufficio cifra Vaticano, Lucv. Comunque, si mette pontificio. E da qui appunto arrivano cose da tutto il mondo. Dicevamo questa vicenda Boff. E no, ma nel libro poi loro sono arrivati, cioè hanno pubblicato anche alcuni di questi documenti che sono per la prima volta stati resi pubblici nella storia del Vaticano. Non era mai successo che documenti di questo genere, dopo che erano stati decrittati, e sono alcuni anche interessanti, quelli che hanno mostrato. Sono sì, curiosi, sì, quelli mostrati, sì, quelli sono che gli sono stati dati da Maria. Sì, sì, quelli che... No, infatti poi il filtro a monte è Maria, appunto, perché appunto questo è un attacco interno curiale. È un, diciamo, nelle intenzioni, perlomeno quelle dichiarate. Filtro, anche se poi il filtro a monte è pure quello che uno può prendere, perché non è che, insomma, cioè, il primo filtro non è quello, non so le modalità con cui questi si sono appropriati dei documenti, non sappiamo chi sono. Però sicuramente non escludiamo, quantomeno, poi, l'ipotesi che alcuni anche... documenti Maria non li abbia pubblicati. Assolutamente. Anzi, sono sicuramente. Diciamo che c'è una certezza, nel senso che dice che già aveva raccolto dei materiali quando pensava già sotto Wojtyla. E che poi di cui poi si è disfatto perché aveva abortito. Poi aveva abortito questo progetto. Poi gli ultimi sviluppi, le ultime direzioni assunte dalla curia, in particolare dalla segreteria di Stato, hanno spinto questo gruppo a farsi avanti e pubblicare queste, quindi che sono sicuramente, sicuramente parziali di tutto quello che avviene. Vabbè, probabilmente anche parziali da quelle che hanno il loro che volevano, forse qualcosa, ma non credo che comunque abbiano tolto cose che potessero, diciamo, essere problematiche. Appunto, cioè quello che avevano l'hanno più o meno, forse avranno tenuto qualcosa di privato, perché tanto in fondo sono cose che sono private, più private di queste, nel senso, queste sono private, nel senso, però su fatti pubblici. Sì, no, poi magari non va neanche escluso, poi so, uno che, leggendo il libro entra un po' in trame di messaggi trasversali, non è neanche escluso che questo libro sia in realtà un avvertimento di qualcosa di ancora più grande a chissà chi della serie. Beh, tipo tu Papa, sai perché comunque. Tu sai come più Bertone, non so a chi Papa, sì, però beh, l'attacco è a Bertone, è sotto l'attacco è a Bertone, e chiaramente il messaggio è al Papa, perché il Papa lo sa che è uscito questo libro e quindi gliel'hanno dovuto. Perché è l'unico che non decide. È un complotto, semplicemente che il libro è per noi, nel senso i lettori, poi lo è anche un messaggio perché il Papa l'ha ricevuto, ma non perché è uscito il libro, ma perché i giornali hanno parlato. Avrà imprecato probabilmente. Certamente, e avrà. Non ha tratto le sue conclusioni, perché poi è stato messo sotto osservazione, perché questa cosa ormai va avanti da un anno più o meno, perché prima centellinavano gli articoli, poi piano piano, no, è uscito il libro, quindi la cosa si capiva, e lui invece si è fatto vedere appunto a fianco di Bertone, ha detto noi siamo un papa vecchio, che è una frase meravigliosa secondo me. Siamo un papa vecchio, siamo un papa vecchio, siamo papa vecchio. Che è bellissima. Che c'è uno stranamente, perché poi generalmente è giovane il papa, che no? Può dire una cosa del genere, no? Siamo un papa vecchio. Su 7 miliardi di persone c'è uno solo che dice siamo un papa vecchio. Fuori dai manicomi. Fuori dai manicomi, ovviamente. Ma non so se è anche dentro. Forse qualcuno che si. Forse dice sono un papa vecchio, ingenuamente. Sì, ingenuamente. Modestamente. Sì, la follia c'ha questa ingenuità. È autentica. Lì c'è tutto, è autentica. Meno che. No, lì non c'è nessuna ingenuità. E nessuna autenticità, perché se c'è l'apoteosi dell'inautentico, questo no, infatti dicevamo la cosa interessante è che questi documenti scrivono la verità. Eh sì, praticamente questa è la verità, esatto. No, la verità, questo è un miliardesimo, no, miliardesimo di, però è la verità. Sì, sì, certamente. Che poi peraltro c'era già stato un caso tempo addietro con i libri, con alcuni libri scritti per la Caos. Sì, c'erano editrice, i millenari. Esatto, che comunque anche lì insomma erano gruppi interni al Vaticano che però ogni tanto non facevano erano trapelare. A questo livello no, di no, no, c'erano i documenti, c'erano voci interne che se la cantavano, come si dice a Roma, ecco. Allora quello era un po', però chi da dentro racconta è diverso, perché sì, è vero che sono fonti attendibili, però bisogna, e sono sempre parole. Quando c'hai il pezzo di carta con la cerbacca sopra, filmato col timbro, tutto quanto, quello fa, è come quando noi andiamo a fare la ricerca storica negli archivi, sì, si cerca, la fonte perché, primarissima, anche perché la fonte orale non c'è più, sono seppelliti, però diciamo le trascrizioni orali sono sempre, diciamo, perché ci sono anche in antico, le trascrizioni orali risultano problematiche, emendabili, mentre invece il documento quello è, perché se io sono un re e manda un altro re un documento, quello effettivamente è il documento, non, si comunicavano tra loro e lo leggevano solo loro, perché pure allora erano segreti. Beh, sì, c'erano i sigilli, no? No, un minimo. Non era facile come oggi, insomma, intercettare un messaggio, insomma, era un po' più complicato. Parla ciò per dei film d'avventura, ecco, dove uno si butta da un albero, piglia un messaggero, lo piace a fuori, gli ruba il messaggio e tutto è risolto, il mondo va bene. No, era complicato. Cioè lo spionaggio era, anche perché, ripeto, bisogna sempre fare conto del fatto che un mondo antico, alla fine i numeri di quelli che erano capaci di muoversi a questo livello erano, cioè, ridottissimi. Beh, certamente, cioè, bisogna sempre considerare il tasso di alfabetismo del mondo fino a 200 anni fa. Era del 95%. Quindi quello implicava che lo stesso Manfredi Cornacchia. E il ciabattino sa legge. Lui sa leggere, ma. Buono a sapere. Però lui sa leggere, ma in segreto. Sì, lui è un ciabattino. È scontato che non sappia leggere. E siamo negli anni 20-30 dell'Ottocento, diciamo, quel decennio di passioni. E quindi era la Roma di allora che non sapeva leggere, quindi figuriamoci. Ovviamente poi il cardinale Tognazzi sa che lui sa leggere, quindi e lo spionaggio di cui sopra e gli dà la condanna, gli fa portare la sua condanna, ovviamente, quindi famo affidasse gli dice. Tognazzi, un meraviglioso Tognazzi Rivarola di fatto da Tognazzi è un momento altissimo, altissimo. tiene testa comunque a uno dei migliori Manfredi della sua carriera. Sì, sì. Beh, sì, c'è il film. Non sapevo di stare fra i primi 100, ecco, però ci si avvicina. Nell'anno del Signore? Top 100 Italia. Ah, Italia sicuramente, insomma. Lì, sì, un film da vedere, imperdibile. Da vedere, 5 stelle, esatto. Consigliato. Per tutti, per tutti. Per tutti. E il clima è comunque è cambiato poco, insomma, da quei tempi, a parte il fatto che non tagliano più teste. È cambiato. È cambiato poco il loro, è cambiato tanto, perché noi leggiamo un libro. È cambiato poco, hai detto. Posso dire una cosa che mi è venuta così? Ormai sì. La posso dire? Beh. Il clima è cambiato poco. No, non è una cosa sul clima fuori, che è cambiato e fa molto caldo. Ma sto lavorando su un'intervista a Gary Oldman, che è il personaggio della talpa di Le Carré. E allora nell'intervista lui, a un certo punto che gli abbiamo fatto, dice, parlava dei servizi, appunto, no, c'entra con quello che stiamo dicendo, perché siamo nell'ambito dei servizi segreti. Le Carré poi è il massimo, diciamo, dei narratori di questo genere, ambito. Esatto. E La spia che vede l'affreddo, ricordiamo ai nostri ascoltatori, Funerale a Berlino, e la tamburina è sui palestinesi e l'Israele, perché è un po' tardo. Beh, anche se è un libro comunque di anni 80, anni 80, sì, però diciamo, siccome era un po' finito il clima della guerra fredda d'oro degli anni 60, bisognava Berlino, trovare dove erano dove era il conflitto, e certo. Quindi siccome i servizi segreti, cioè il Mossad poi c'ha una, insomma, c'ha un'aura, parlo in termini narrativi, mitica ovviamente, no, per ragioni così, insomma, sono pochissimi, un piccolo paesino che però appunto come il Vaticano. A proposito di Mossad, per esempio, Nuzzi cita un'affermazione di Simon Wiesenthal, esatto, noto vedi che c'è persecutore di nazisti, che dice che il Vaticano è il più efficiente servizio segreto al mondo. Esattamente, quindi tutto si collega. E ovviamente La tamburina è un libro abbastanza ambiguo, è immaginabile. Ecco. Beh, direi. Però Le Carré è nichilista, cioè nel senso che lui guarda da fuori come, cioè, una follia, come dei marziani che vedono questa, cioè, capito, un massacro folle, perché a monte poi in fondo c'è un piglio religioso, no? Ognuno c'ha un dio che presiede e determina un'appartenenza territoriale. Questo lo percepisce un marziano, dice, ma io sono matti, no? Sì, e lui perché si discutono sul l'occhio è quello. Capito? Quindi con quello sguardo lui racconta una storia di spie. Quindi lui dice a un certo punto, a proposito di questo, dice si sono fatte le guerre, no? Il Vietnam, i miei, diciamo, gli adulti prima di me, poi Gary Oldman c'ha 56 anni. Gary Oldman, sì, è intervistato, lui è inglese. E io, ripensando allo scenario della guerra fredda, del Vietnam, e dice, in fondo cosa è cambiato? Mi sembra molto poco. Non riscontra particolari. No, nel senso, parlava del presente e diceva, insomma, che a parte dei dettagli, lui era abbastanza pessimista nello scenario generale. Lui ha fatto un'interpretazione di Sid Vicious memorabile. In Sid and Nancy. È il suo esordio. Julian Temple. Quasi perfetto. Mamma mia, che inquietante. Che mi sembra da riprendere. Inquietante. Non so se ve lo ricordate. Sì. Assolutamente. Vabbè, è stato niente, bravo, era solo per dire che appunto aveva testimoniato una globalizzazione tragica, Gary Oldman. Questo mi ci conferma in alcune. Che dice nulla è cambiato. Cioè, che è un attore serio e che si era immedesimato e si era posto problemi politici mentre recitava nella talpa, che era poi ambientato questo film a metà del 73. Poi c'è da dicembre a Natale. Bello, molto bello. A proposito dei servizi segreti, sì, i servizi segreti Vaticani, come giustamente ricordato tu, sono i più efficienti del mondo. Ma non solo il Mossad. Se chiunque legga un qualunque libro che ricostruisce la storia della Seconda Guerra Mondiale, questi divulgativi, c'è sempre un momento in cui gli inglesi si servono dei servizi vaticani e viene narrato proprio come un bisogno, perché erano affidabilissimi durante proprio il 44. Storie di fonti primarie e esclusive. Assolutamente. Però, tra l'altro, a Milano, tra il CLN e i gerarchi fascisti, a mediare c'era il cardinale Schuster, quindi voglio dire, anche noi, insomma, abbiamo immediata e diretta testimonianza. Perché era un uomo buono, il cardinale Schuster e Mussolini, cioè non era un caso. Curioso, no? Eh sì. In un momento un po' problematico, direi, della storia italiana. Capito? Cioè, ma guarda un po', ecco, prego. No, no, dicevi e diceva e citavi, insomma, nulla è cambiato. In parte è vero, nel senso, per loro nulla è cambiato, però è cambiato che noi per la prima volta leggiamo queste carte. Forse quindi, mai più. Forse mai più, e sicuramente adesso saranno ancora più attenti, insomma. Però non era mai successo, insomma. Forse mai più, no, perché non si sa mai, perché chiunque può, a qualcuno finiscono in mano, se quello decide è fatta, però ci staranno attenti. Comunque, prima stiamo parlando di quante copie può vendere un libro del genere. La settimana che è uscito è stato primo in classifica. Ora non so in termini, diciamo, globali, totali, quante sono effettivamente vendute, però insomma è un libro di ampia diffusione, diciamo. Sopra le 100.000 si parla di best seller ormai. Beh, credo perché che c'è una crisi tale che, insomma, poi se stai sul milione hai fatto i soldi proprio. Però non, questa roba no, sono i romanzoni, diciamo, quelli che vanno sul milione, su case. Sui 100.000 ci stiamo abbondantemente, ecco. Sì, sì. Sì, sì, io ho letto che ha superato, se non ricordo male, mi pare di aver letto che ha superato 100.000 copie. Beh, insomma, siamo 60 milioni, voglio dire, 100.000 copie, poi non è che sia una cifra così. Per una cosa come questa, insomma, ci stanno 100.000 e più persone. Aficionados come noi. Infatti, insomma, quindi. No, poi sono, hanno parlato di tutti, compreso il Papa, quindi insomma, quale migliore pubblicità. No, ma è un evento storico, questo sarà nelle pagine dei libri storici, perché a un certo punto, quando si ricostruisce la storia di questo periodo, non puoi non dire che a un certo punto persino il Vaticano ha subito, capito, cioè una fuga di notizie di un certo livello in un momento in cui poco dopo WikiLeaks, quindi nel futuro tra 50 anni l'epoca è questa, cioè non è, per noi sembra che è passato molto perché è già un po' di tempo, Assange lo estradano, è sotto processo, insomma, quindi però i documenti stanno continuando ad uscire perché sono tantissimi e ogni tanto trovano cose nuove. Certamente. Questo però è un momento evidentemente in cui sia WikiLeaks che questo tipo di discorso, al di là di chi riguardano, cioè il governo americano, britannico, Vaticano, quello che è, mi pare c'è una domanda di verità. Eh sì. E comunque anche una certa capacità, perché insomma, appunto, sono stati violati i due più grandi servizi. Sì, però questo si determina un po'... se c'è una domanda. No, sicuramente, vabbè, al di là della possibilità tecnologica, però sicuramente sì, sì, c'è la domanda, anche perché poi quella del Vaticano non ha niente di tecnologico, quindi quella è totalmente quella, è una cosa che sarebbe potuta succedere anche 10-100 anni fa, uguale. 1000. Proprio. Sì, una persona, cioè, che prende una. Certo, magari non la scannerizzi. Sì, però lo puoi fare questo come gesto, ma il senso no, c'è bisogno di una società globale. Per poter, che si attenta a. Quindi in questo momento c'è una svolta, c'è una svolta perché il mutamento dei media è stato evidentemente ormai tale che ricade ormai su tutti. La cosa è cominciata molto indietro nel tempo, almeno 20 anni fa. Però poi perché questo investa una massa enorme, ormai stiamo parlando di miliardi, un paio di miliardi di persone pienamente coinvolte, quindi siamo in un consolidamento di una fase storica che è in mutamento e che è però già altro, ed è anche una mutazione antropologica, perché è evidente, cioè evidente proprio per strada, si vede, c'è un cambiamento reale. Tu vai in una all'ora di pranzo, per chi lavora in centro, tutte le persone che escono e mangiano nelle pause pranzo, tu vedi nelle panchine dei parchetti che non ci sono più gruppi umani, tranne qualche gruppettino un po' giovane, rarissimo, ci sono gruppi di singole persone che si mangiano una vaschetta di qualcosa e stanno con lo smart a parlare ininterrottamente, a comunicare, a scrivere, ed è un dato reale, oggettivo questo, ed è una novità, perché vuol dire che tu sei ovunque, diciamo, in connessione perenne con il resto del mondo, di fatto è così, e quindi cambia qualcosa totalmente. Prima era impensabile, uno basa un documentario degli anni 90 e vedi persone che stanno sedute, mangiano e parlano, perché fino allora era oppure così. Stanno da sole e zitte o zitte da sole, o leggono libro, un giornale, leggono un libro, insomma. Non è escluso che leggano il giornale notizie, ma dipende, insomma, questo si tende a parlare. Poi questo ovviamente in Italia col sole, insomma, si parla di più. Noi è scientificamente provato, parliamo di più per strada. Anche i cellulari ce l'hanno in tutta Europa, ma non è come da noi. Anche siamo in macchina. Il paese con più alto tasso. Siamo al mondo, proprio insieme a Hong Kong. Quindi. Esatto. Ci sarà una ragione antropologica anche per questo. Sì, non analizziamola ora, purtroppo. Però appunto, questo è un mutamento in cui questa cosa si iscrive, l'evento Maria, che va oltre il Maria, il Papa, che sono tutti soggetti che alcuni per età anche a breve lasceranno questa terra, e invece tutto quello che sta accadendo investe questa, la nostra, la futura, quella prima, insomma, è quella a venire generazioni, ed è un mutamento radicale, velocissimo, perché ormai è tutto sempre più veloce, la potenza, perché è la potenza di calcolo che governa tutto questo, che si velocizza di sei mesi e sei mesi in sei mesi, con problemi che si stanno ponendo e si devono risolvere. Questo muta noi come soggetti nel mondo, qualunque cosa accada, rispetto al fatto che questo pianeta ci riesca a sopportare ancora con questo consumo di energia. Questo ovviamente è dato per scontato che è un problema che va posto, però io sto notando che, diciamo, sono quasi certo che tra 30 anni lo scenario per strada sarà cambiato radicalmente, perché sta finendo proprio un'era dell'automobile come l'abbiamo concepita per 100 anni. No, ma è evidente, perché si vede proprio dalla produzione. Ancora sono embrioni, ma chi non sta attento non se ne accorge, per cui è ancora una produzione, ma è scientificamente certo che... Beh, anche poi basta andare in luoghi più evoluti del nostro per avere, infatti, ancora noi saremo più... gli ultimi, sì, infatti... di comprensione di da noi fenomeni. Esisteranno ancora le Fiat forse, guarda. Però adesso c'è il lancio della macchina aria compressa, che è una tecnologia di inizio Novecento. Poi si è rivelato più efficiente la benzina, perché c'era un petrolio infinito nel 1910, e quindi ora non è più così, e allora hanno rispolverato. Anche l'elettrico esisteva da prima. Adesso anche il 3D, insomma, è roba degli anni 50. Ah, sì, certamente. Quelli però sono cose un po' così, diciamo, per spettacolo. Qui è hardware, cioè cambi un motore, no? Quindi sono alla base della... Sì, non è che la macchina aria sia stata inventata, che è una truffa. È una cosa che ha bisogno di essere ricaricata elettricamente, poi c'ha anche dei motorini a benzina che consumano il 4% di quello che consumavano questi, quindi ovviamente è un minimo per ricaricare, e poi funziona a per pressione parecchio. Sì, perché c'è una viene pompata aria a pressione, e quella poi spinge e brucia. Beh, è una delle critiche che si fanno allo sviluppo industriale italiano, che ha dato soldi a pioggia per... infatti noi saremo gli ultimi, perché certo, appunto tipo, abbiamo avuto gli Agnelli, spendevano miliardi per... No, ma questa è la Tata, cioè sono gli indiani, quelli si sono posti il problema, perché ho detto adesso se vogliamo motorizzare un miliardo di persone, mezzo miliardo di indiani, metà. Pure 100 milioni milioni, che facciamo? L'India facciamo 100 milioni, suicidiamo... ci suicidiamo con 100 milioni di macchine a benzina? E quindi la Tata ha preso... Quello che fa la Cina? Però insomma, ha cominciato qualche anno fa, ma la Cina si pure il problema che ma lei se lo stanno ponendo, perché non sono dei pazzi. Certo. Non possono, cioè, la metropoli cinesi attualmente sono posti in capito, cioè avranno dei problemi inevitabili, non possono nascondere la testa sotto la sabbia, non possono. E io non credo che ci siano degli stolti. Che cosa? A Pechino dicono c'è una grande diffusione di massa di motorini elettrici. Ah, ci danno un'informazione da Pechino, un nostro corrispondente da Pechino. Il nostro corrispondente ci dice che c'è una diffusione. Che non è qui il nostro corrispondente. No, non è qui, ci ha comunicato che ci sente. Sta su una panchina a Pechino. E ci dice che c'è una diffusione di motorini elettrici. Su smartphone. Vabbè, non è qui, probabilmente neanche esiste, perché comunque lo cerchino. Si chiama Maria. Maria, esatto. È la nostra fonte Maria a Pechino. Perché c'è anche uno dei nostri nel gruppo Maria, che vi credete, ci facciamo mancare qualcosa. Ovviamente. Adesso hai svelato, vabbè. Vi daremo prossimamente dei documenti inediti. Abbiamo un maggiordomo. Anche noi, vabbè, noi più che altro. Un colfatore, penso, noi di più non ci possiamo permettere. Un giardiniere. Esatto. Un assistente giardiniere. Quindi invece un'altra cosa interessante è quella di Sodano. Quella di Sodano alla segreteria di Stato. Meravigliosa. È uno dei pezzi più belli del libro. Ti prego, dillo tu, perché io rido. Non rido anch'io. Comunque, diciamo, la vicenda è che nell'avvicendamento Sodano è l'ex segretario di Stato, quindi appunto l'ex premier, che è stato sostituito, anche per raggiunti i limiti di età, da appunto Bertone, che comunque non è che sia un giovanotto, il rottamatore Bertone. Sì. È tipo 75 contro 85, ecco, sì, cose forse, del genere. Sì, sì. A quel livello. E comunque l'avvicendamento comportava ovviamente anche proprio la sostituzione fisica, l'insediamento fisico nell'ufficio. Certo. di Sudano, il quale per più di un anno si è rifiutato di cedere la il poltrona. Suo ufficio in attesa di ricevere che la fosse nomina. Pronto la nomina degna. Era una degna nomina con degno perché ufficio. Lui pretendeva una degna nomina con degno ufficio, quindi non schioda dalla... E Bertone per circa un anno sta in un non so sotto scala Vaticano, so, ovviamente sta in un altro ufficio, chiamano comunque. E quindi queste sono i racconti, queste sono le cose più belle, questa è la cosa più bella in assoluto, che sono cose che umanizzano il Vaticano. Non solo umanizzano, ma dimostrano che col testo del Vangelo loro hanno dei rotoli di carta igienica che sono stampati nei vari cessi del Vaticano in ogni ufficio e lo usano proprio per questo scopo, se lo fanno fare da solo una ditta, solo i porporati ditta, però. Solo gli alti porporati ovviamente, quindi solo per i cardinali c'è questa carta igienica fatta proprio con le pagine del Vangelo dove si allude proprio all'umiltà, sì, alla carità, la temperanza esatto, a tutto quello che e però abbiamo questi che si piantano per un anno nella stanza, no, è roba da Fantozzi, cioè il mega direttore riesca, però deve essere diventato direttore si siderale, super direttore siderale, siderale, altrimenti non se ne va, non se ne va. Però appunto sono tutti devotissimi, eccellentissime eccellenze, reverendissime nei testi, come ecco, è bello saluti. Anche il linguaggio, ma non ce l'hai? Per un grave inadempienza grave si è scordato il libro a casa, diciamolo alla radio che si sappia, i nostri 8 milioni di ascoltatori sappiano. Sarai rimosso dalla direzione di Famiglia Cristiana anche tu per questo. Probabilmente sì, insomma, carriera compromessa. E comunque sì, sono tutti devotissimi, ossequiosi, tutti attenti. Siccome l'hai dimenticato, adesso reciti a memoria uno degli estratti. Inventando grandiosamente. No, vabbè, diciamo sul linguaggio è sicuramente uno dei, dicevamo proprio, uno degli aspetti principali perché complessivamente proprio e non solo, fondamentalmente le fonti sono appunto cardinali e altissime sfere vaticane e alcuni esterni e Gershwin. Gershwin ovviamente che è comunque interno, è curiale, il segretario del Papa, non lo chiamano Gershwin, si chiama Gunswein. Padre Georg. Padre Georg, che io chiamo Gershwin. George Gershwin. Però ci sono anche personaggi tipo Gotti tedeschi, per esempio, che è uno dei principali e Boffo. Autori. E Boffo, di cui abbiamo detto in apertura, che sono tra i principali. Gotti tedeschi parla molto, sono molte lettere, prima delle dimissioni e prima del suo testamento segreto, del suo memoriale. Su cui è stato interrogato, ma insomma ancora vedremo, scopriremo. E comunque lui scrive, e tra l'altro scrive anche cose interessantissime quando fa dei report sull'economia. Innanzitutto dice proprio La sua verità, e quella è veramente, tra l'altro, la verità di un pragmatico economista che ha un linguaggio assolutamente... A capo di uno degli istituti finanziari più importanti del mondo. Esattamente, comunque di tradizione è quella, quindi non parliamo di un ateo, però o quantomeno che non ne fa pubblica confessione quando scrive al Papa. Però è chiaramente una visione pragmatica e quindi evidenzia tutta una serie di criticità sia interne alla curia. Lui poi è almeno insomma a quanto si evince dalle lettere e anche dalle sue dimissioni è un fautore della linea cosiddetta della chiarezza dello IOR, perché comunque la Comunità Europea ha posto dei problemi sulla trasparenza bancaria e lo IOR si deve adeguare. Gotti tedeschi era stato anche proprio uno dei da direttore uno dei designati a fare ordine anche legislativo in questa situazione. Quindi lui descrive poi intanto la situazione dei conti e fa un discorso pure anche demologico sul futuro, sullo scenario futuro del mondo e quindi dei rapporti di forza tra zone di influenza cattolica e non. Quindi sostanzialmente dice innanzitutto che i centri della cattolicità, quindi l'Europa e gli Stati Uniti come i centri economici, sono in crisi demografica e quindi lui fa derivare molto direttamente da questo e quindi anche crisi economica e quindi destinati a mantenere quantomeno con difficoltà il primato mondiale, che invece vede in ascesa le potenze asiatiche che sono quelle non cattoliche. E quindi intanto propone questo come scenario proprio allarmante, parla proprio in termini di emergenza, come nuova via dell'evangelizzazione, però ci arriva come economista appunto, quindi poi noi vedremo che l'esito che questo avrà nel discorso pastorale, come il clero recepirà queste indicazioni. Poi dice quello e dice che questo comporta anche proprio un ovvio calo delle offerte qui, nel senso intanto c'è una minor devozione, ma poi c'è la crisi economica che determina anche una crisi proprio delle offerte, quindi anche delle entrate del Vaticano, su cui si fonda anche lo strumento dell'evangelizzazione, cioè proprio il denaro della propaganda proprio. Infatti si chiama propaganda fide. Non a caso. Comunque sempre lì andiamo a parare alla fine. Certo, quello diciamo, è il nodo. Ci sono due tre questioni fondamentali. Uno dei più grandi economisti, proprio il capo dello IOR, che dice: attenti, perché stiamo proprio in emergenza. Qui c'è proprio un problema materialista, proprio. Fa un'analisi proprio materialista. E dice: attenzione, pesantemente. Quindi poi vedremo questo come si risolverà. Perché insomma, il libro è di pochi mesi fa. Ancora. Certo, è difficile ipotizzare una soluzione, insomma. Ma non credo che lo risolvano. Più grande di loro. Direi che è tutto più grande di loro. Cioè, il mondo è più grande di loro, ma da molto tempo, e quindi è chiaro ed è evidente che loro sono, come dire, in affanno a livello globale. Gestiscono tutto perché hanno questo apparato che dicevamo. C'hanno ancora ovviamente una forza enorme perché c'è un vuoto intorno così all'emancipazione e alle possibilità di un'emancipazione di tutta l'umanità, che chiaramente finché non evolve in una direzione di superamento di certi bisogni primari, la credenza verso il trascendente, la trascendenza assoluta, l'aldilà, rimane una domanda inevasa che è antichissima, e quindi chi risponde gode di credito. È chiaro che è un mercato. Ed è anche chiaro che ci sono delle modalità ovviamente inedite anche in questo senso, perché quanto diciamo prima, il cambiamento antropologico è totale, riguarda ovviamente anche questo, per cui anche il tema, come dire, dello spettacolo, della comunicazione entra in gioco su questo. Questo ovviamente si porta dietro anche i costi. Il denaro di tutto è molto, questo. Molto denaro, presente in questo. Il denaro è centrale in questi testi in cui c'è scritta la verità. Però questo è, però il denaro è quello che diciamo deve spendere l'agenzia che deve vendere il suo divino. Ciascuna agenzia ha settore marketing e si confronta con i problemi della comunicazione per chi opera in questo senso, cioè parlo di agenzia nel senso in generale i cristiani, che non sono solo i cattolici, cioè hanno tutti un problema di evangelizzazione. Quelli che ce l'hanno più emergente, urgente e drammaticamente centrale, perché è il perno su cui poggia l'intera costruzione del Vaticano, cioè l'evangelizzazione universale, sono proprio i cattolici, cioè sono loro che hanno il problema più grande che si possa immaginare rispetto al doversi. Non bastano a se stessi. No, perché loro parlano della verità ultima, e quella vuol dire che o la divulghi e tutto il mondo è evangelizzato, oppure il compimento non c'è. Il loro obiettivo è quello, come, quando, non gli importa. Loro sanno che devono resistere con ogni mezzo necessario a qualunque cosa nella storia, perché tanto è già tutto successo quando è morto e risorto il loro Dio, e quindi tutto questo è solo una parentesi in cui si deve concretizzare che quello che lui dice deve essere fatto credere a tutti gli abitanti del pianeta Terra. La cosa è cominciata che c'erano 200-300, ma no, che 30 milioni di abitanti sul pianeta Terra, adesso sono 7 miliardi e le cose sono un po' complesse. Poi sono successe in mezzo un sacco di altre cose che hanno smentito totalmente quello che diceva questo signore, che era un tizio che tra l'altro non voleva nulla di tutto ciò. Non ha nulla a che fare. Nulla a che fare con tutto ciò, e quindi questo è il principale dei problemi che loro hanno. Questo lo sanno in tanti, lo sanno almeno mezzo miliardo di persone, che sono pochissime su 7 miliardi, perché gli altri 6 e mezzo no. Ho detto una cifra X. Sono una discreta minoranza. Però è anche la prima volta che c'è mezzo miliardo di persone che sa perfettamente tutto questo, cioè che si è liberata di tutto questo e che per prima cosa teme proprio questi personaggi qui. Poi diciamo le sue angosce su Dio possono essere più o meno risolte definitivamente, questi sono altri aspetti, però è un altro discorso, perché quello è un problema con l'infinito, con l'angoscia della nostra finitezza che rimane diciamo, e che poi comunque si può risolvere senza di loro, ma da molto tempo, anche col trascendente, assolutamente. Fa il buddista, cioè che è la via più semplice e tra l'altro la più diffusa in Occidente come sostituzione per chi ha ancora bisogno, no? Oppure con una auto-organizzazione di questo sistema, cioè nel senso che uno individualmente si crea una sua dimensione trascendente, la vive, e se c'ha gli strumenti culturali per farlo, ed è quello il problema. Quindi loro devono impedire, tutti gli evangelizzatori, in particolare loro, che questi strumenti culturali, è un conflitto proprio culturale con chi ovviamente questi strumenti culturali li pone come un problema di valore universale. Essi sono gli strumenti dell'illuminismo e della società e moderna lì, e contemporanea. Quelli non ritorniamo. Nel senso, quelli è tutto quello che ne consegue, perché lì comincia l'avventura del signor e poi prosegue ancora oggi, ma quelli sono, perché è lì che c'è, diciamo, lo svelamento di ciò che noi siamo, la nostra, diciamo, non definitiva ma ampiamente chiara autocomprensione, che si consuma in un secolo e arriva anche alla, beh, in fondo non siamo nulla e quindi fine, ma nulla di nulla ovviamente. E poi c'è chi dice no, non è vero, siamo, ma non c'è bisogno di quella, non siamo tutto, di quell'essenza, ma siamo qualcosa che funziona in un certo modo. E questo oggi è il dato su cui si sta lavorando. Quando Gotti Tedeschi gli scrive, lui tiene conto di tutto questo, perché lui è uno che è un dell'Opus Dei, quindi delira, perché non so che c'ha nella testa uno così, e vive, non credo scisso, potere, per cui vive, credo. Esattamente, quindi siamo, quella è una dimensione di potere metafisico che gli serve, come se fosse uno della setta, quella di Guzzanti, là, della Waller, insomma, la stessa cosa, nel senso, sì. è non ha niente a che vedere la fede, tra virgolette, di Gotti Tedeschi con quella di una qualunque beghina di strada, cioè che ha una dimensione totalmente... probabilmente autentica nei confronti di Gotti Tedeschi. Certo, molto più autentica. Capito? Sì, direi. Perché è un bisogno primario di una persona semplicissima che si sente piccola e sfinita di fronte al male, al dolore, alla morte. Quindi questo riguarda miliardi di persone, abbiamo detto. E loro prosperano su questo. Quindi la cosa terrificante è anche questa, che da un lato bisogna riconoscere che è chiaro che qualunque religione questo problema lo assolve. Finché non è risolto non è possibile sostituirla con uno schiocco di dita, una cosa di questo genere. E quindi c'è questo doppio livello in cui la domanda c'è, ed è una domanda di dolore, di giustizia, di angoscia, che però le società laiche, non tutte quelle immaginate finora, non hanno soddisfatto pienamente. Hanno dato delle risposte, ma c'è qualcosa che non funziona, quindi bisogna lavorare su questo. Lo scontro è chiaramente sull'educazione dei fanciulli pubblica, perché o tutti condividiamo l'essere pubblici e quindi in una società oppure è finita. Quindi loro, in questo caso in Italia in particolare, che è uno snodo unico al mondo per ragioni direi più che oggettive, in quanto lì sono e non ci piove, quindi così come la muraglia cinese sta in Cina, il Vaticano sta a Roma. Quindi punto, e tutto il resto, e la Torre Eiffel a Parigi, diciamoli tutti, dai. Beh, poi soltanto con l'UNESCO le principali, questo è lungo, ecco. Dai, diciamoli, no, ti prego, io li voglio dire tutti. Cioè, la statua della libertà. Ci interrompiamo qui, facciamo 6 trasmissioni sull'elenco, così come 5, una per continente, con l'Oceania. Guarda che è peggio dire così, perché uno si accapiglia. Qual è la più importante? La muraglia cinese, sicuramente. Beh, si vede dal satellite. No, mi è smentito. Sì, vabbè, ma non ci menzogna, credo. Menzogna. Sono le solite cose anticinesi, se si vede qua. No. Si vede dall'aereo, sicuramente. Dall'aereo non c'è dubbio. Dall'alto, diciamo, dei cieli. Dall'alto c'è, chissà se la vede. Beh, comunque sa che c'è. Dall'alto dice, sa che c'è, ma l'ha fatta lui. Era previsto. Era previsto, in qualche modo. Fa parte del disegno. Anche che non avrebbe funzionato. Tutto, c'è tutto. Pure l'atomica, tutto, Auschwitz, fa tutto parte del disegno. Lì la vedo dura. Infatti molti hanno ceduto. Fra Lisbona e tra l'altro, no, tra l'altro, ecco, io non l'ho, diciamo, rievocato, perché è un nodo centrale delle nostre discussioni da anni. Il nodo di Auschwitz sul piano teologico ovviamente è fondamentale, perché siccome il Dio è lo stesso, è il padre comune, già lì poi si è posto il problema. Infatti poi dopo loro nel 65 hanno detto no, abbiamo scherzato, non siamo antisemiti, siamo fratelli da sempre, lo diciamo. C'è voluto che Dio si fosse inalberato, perché l'hanno interpretata come, capito, che siete voi, quindi un po' di falsa coscienza. È misterioso, è un evento, insomma, comunque devastante, a parte in sé, dico, cioè nella cultura occidentale è stato, diciamo, decisivo. Beh, infatti acque sicuramente. Sì. E quindi dopo tutto questo loro hanno questo problema, cioè di dover evangelizzare l'intero pianeta, perché loro dicono noi siamo di tutte le religioni, attenzione, questo è fondamentale, tutte, alcune sono, no, falsissime, proprio sono demonio, altre sono proprio simulacri vani, beh, c'è qualcosa, oppure, di, c'è qualcosa di vero, oppure poveracci siamo noi, però basta un passetto e vengono, sarebbe tutto il cristianesimo. Fatelo questo passetto, fatelo voi questo passetto, gli altri dicono perché non lo fate voi, perché no, perché noi siamo, siamo la verità, cioè tu che abbiamo il deposito della verità allo IOR allo IOR Petrino negli archivi c'hanno il Petrino, c'hanno, no? La pietra. Un falso, perché non falso, non è un falso, insomma, falso. No, non è un falso. Niente di falso, cioè nei Vangeli ci sono dei falsi fatti, cioè come i Sarisi, diciamo, è mal interpretato, ecco. Diciamo proprio il concetto di vero che va. Beh, no, però ci sono delle interpolazioni tarde che sono, diciamo, veramente insostenibili, tipo appunto Matteo 16:18, cioè Pietro, su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Proprio su questa qui. E su questo poggia tutto il discorso, cioè la baracca, che è la verità vera, gli altri non dicono la verità, perché la teologia che noi facciamo derivare da questo è la vera. Ovviamente anche qui, insomma, non è una supercazzola, è molto oltre, magari fosse solo questo. Però finché tu c'hai un esercito di 300.000 sacerdoti, un miliardo così, arruffato, perché c'è dentro di tutto ovviamente, di cattolici, un miliardo di cattolici però è veramente arruffato, che ci stanno tutti, c'è, cioè, di tutto, c'è, cioè, veramente di dai tutto, guerriglieri latinoamericani fino ai neonazisti, di tutto, e quindi però questo è un numero che si spende, perché i dati, quando tu li vai a calcolare a livello planetario, loro sull'Atlante risultano, quando vedete i colori, vedete cattolicesimo, andate a vedere, e quello è, e i calcoli si fanno sui battezzati, quindi poi dopo, su tu, durante la tua vita sei quello che sei, cioè fai, non so, spendi 20 milioni di euro in così seratine, però se rimani battezzato, però sei battezzato e sei conteggiato, dico così, così per dire, no, nel senso che è abbastanza distante rispetto anche come a Sodano, cioè questi personaggi potentissimi sono nella loro vita, sono tutti cattolicissimi, conteggiati, anzi alcuni sono ai vertici, sono stati segretari di Stato, e poi quello si impunta sulla scrivania, dice: io non me ne vado finché non mi date un pari o un miglior ufficio e trattamento. Uno legge il Vangelo scritto: non portatevi niente tranne la bisaccia, no, neanche la bisaccia, ma nemmeno la bisaccia, infatti, i sandali, i calzari, no? E allora dice: vabbè, insomma, non lo so, quella è la parola del Dio, cioè, la verità vera, proprio, tanto perché tanto lui lo dice, dopo è inutile, non c'è niente, quindi che ci fai dei beni del con la bisaccia, hai capito, la bisaccia, la villa di Magheri, ma che ci fai, tanto dopo la deve ereditare cinque figli, che ci fai? Insomma, in questo scenario in cui non ci sono le parole, perché quando uno dice ipocrisia non rende niente. Non c'è più nessun discorso possibile di fronte a quello che è evidente, anche senza i documenti di Maria, alla fine. Sì, a noi non è che ci ha cambiato di molto, devo dire. No, infatti, verità, abbiamo detto in apertura che tutto sommato, diciamo, non è... La cosa interessante era appunto la società dello spettacolo di fronte a, quindi il problema centrale questioni che c'hanno è quello economico, cioè quanto costa conquistare il pianeta, che è quello della Spectre di 007, che ha bisogno di miliardi per mettere in piedi la sua macchina e occupare il pianeta, e poi quello politico, cioè come realizzarlo, e poi quello, appunto, quindi gli scritti di Gotti tedeschi sono dei testi di teologia economica di altissimo livello, perché sono esattamente quello che è attualmente il Vaticano, né più né meno, cioè un apparato che senza denaro è finito, non va avanti, è finito, e lui dice: state attenti. Poi ci sono i riti cinesi e giapponesi, che sono lì anche divertenti, perché lì stanno a ricci, cioè stanno ancora al problema dei gesuiti, non l'hanno risolto, perché intanto di là però sono nel terzo millennio i cinesi, certamente, i giapponesi, quindi sono ben lontani, non hanno aspettato ricci, però ancora hanno il problema, appunto. Sì, no, tipo lì dice: in Cina sono meno del 6% della popolazione, quindi comunque molti milioni. Beh, certo, un numero molto alto, 6% è un numero, mentre scelto in Giappone il numero è veramente infimo. Cioè, la comunità cattolica è veramente risibile numericamente. E poi c'hanno la genialata del vescovo eletto dallo Stato, che è divertentissima. Eh no, quella è roba da 1300, la lotta per le investiture. Enrico IV e Gregorio VII. Voi vi occupate di religione. Occupatevi di religione, esatto. Il resto ci pensiamo noi. Cioè, loro dicono: no, noi ci vogliamo occupare di politica e venire a rompere i coglioni a voi anche qua, capito? Perché vi distabilizziamo, portiamo... Quantomeno portiamo l'Occidente, ecco. Quantomeno. E qui hanno detto, cioè, già ci abbiamo messo tanto, dicono, per cacciare via gli inglesi, a noi, poi, insomma, ci interessa fino a un certo punto. Casomai verremo noi, no, voi, esatto, quando sarà. Ma non hanno nessuna chance. Ci faremo vivi noi. Ci faremo vivi. Vi faremo sapere. Vi faremo sapere. Quando sarà, vi faremo sapere. Su Vi faremo sapere, noi vi salutiamo. Vi faremo sapere venerdì prossimo. Venerdì prossimo. Nuove altre cose. Ci sarà anche qualche aneddoto. Un apparato musicale di altissimo livello. Sì, perché che ritornerà finalmente chi non è qui adesso. Ma uno dei grandi cialtroni. Ma è stato licenziato? No. No, no, ha vinto a Cannes il cialtrone d'oro. Ah, vabbè. Quindi è andato a ritirarlo, ovviamente il cialtrone d'oro si ritira, stai 2 mesi fuori, capisci? Benissimo, benissimo. Ha festeggiato, capito? Sì, sì. Ovviamente l'ha ritirato, l'ha ritirato in contumacia, in realtà non l'ha ritirato lui, perché davvero cialtrone davvero ha mandato cialtrone. Un terzo a ritirarlo e lui già stava da una settimana, per cui sono 3 settimane. Capito? Va bene. Il vero cialtrone d'oro. Allora, ci risentiamo venerdì prossimo. Facciamo il cialtroncino d'oro. I milanesi hanno il Lambrogino, noi facciamo il cialtroncino. Noi diamo l'ultima puntata dell'anno. Diamo il cialtroncino d'oro. Arrivederci, ciao. A venerdì prossimo, ora di religione, @autistici.org, la posta elettronica, ondarossa.info per le registrazioni delle puntate. E fra pochissimo, come sempre, il giornale radio.